Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti da Trieste. Siamo ospiti di Trieste Next, questa manifestazione che si tiene fino a domenica nella città giuliana. E per questo faremo un itinerario in questo territorio bellissimo, con delle sorprendenti eccellenze gastronomiche. Magari in questa zona tutti pensano che ci sia solo vino, in realtà andremo alla scoperta veramente di cose particolari e in qualche caso anche innovative. E allora cominciamo, visto che è un territorio noto anche per la bellezza del suo paesaggio, anche se è duro, anche se è un paesaggio sicuramente molto particolare, e iniziamo a parlare di un argomento dolce, visto che è mattina, e quindi lo faremo assolutamente parlando di miele. Cominceremo dal miele, ma nel frattempo ricordo, per chi volesse intervenire, 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E allora, miele sia, e devo dire anche che abbiamo con noi Rossana Bettini, una giornalista che ci condurrà in questo viaggio e ci farà, diciamo, da Virgilio in questo viaggio. Allora cominciamo dal miele, cominciamo da Fausto Settimi. Buongiorno signor Settimi. Buongiorno. Allora, io voglio chiederle, perché le varietà del miele sono tantissime, molte volte ce n'è una che è peculiare con il territorio, diciamo, dove si produce. Se lei dovesse dire: bene, la varietà interessante, particolare e originale della mia produzione è? È il marasca. Marasca, che è un nome improprio, sarebbe il ciliegio canino o Prunus maleb. Quindi questa ciliegia molto particolare, molto emiliana romagnola, diciamo. È un albero che cresce esclusivamente sulle terre rosse del Carso. Non ha niente a che fare col marasca. Ah, ecco, importante. Torno a dire, il nome marasca è un nome improprio. Questo albero, questo tipo di ciliegia, che è immangiabile, piccolissima, la trova solamente sulle terre rosse del Carso. Bene, importante questo, come dicevo, originalità ed eccellenza. Bene, Rossana, tu l'hai assaggiato questo miele? Penso di sì. Io l'ho assaggiato, però ha ricevuto un sacco di premi, Davide, è stato premiatissimo, credo uno dei più premiati in Italia, in Inghilterra, anche in Istria, Slovenia e Croazia comprese, giusto? Ma che gusto ha particolare? Volevo sapere che gusto. Beh, organoleticamente ricorda leggermente la prugna selvatica, se vogliamo proprio dare una connotazione al corredo aromatico. E poi naturalmente il fondo di fiore del miele, che è abbastanza somigliante come base per tutti i mieli. È molto diverso dal miele di Tiglio, questo sicuramente. Settimi, volevo chiederle, quale altra varietà? Marasca, che è il fiore all'occhiello e che rappresenta il mio territorio, praticamente io dico sempre il mio territorio, la mia terra e la mia gente in particolare, e ci tengo a dire, perché per me il Carso comunque non è solo Trieste, è isontino ed è sloveno, un unico territorio con un unico popolo. Questa è come la vedo io, un territorio povero, va bene, ma dà dell'eccellenza non solo di miele, di formaggio, di olio e non di meno il vino. Ecco, il territorio che dà il marasca, dà il Tiglio particolare, perché è un Tiglio quasi puro, una caccia che non è tra le migliori, ma è caratteristica del territorio, perché ci sono dentro altri nettari, e un millefiori. Per ultimo, non di meno, abbiamo la melata, va bene, che nella mia lingua, in sloveno, viene chiamata manna. Manna perché manna? Perché andiamo a ritroso e andiamo a guardare i libri sacri, va bene, dove gli ebrei hanno avuto questa manna del cielo, e allora i nostri vecchi, dato che non si fa sempre questo miele, è stata chiamata sempre in sloveno manna. Beh, dobbiamo dire che la manna viene prodotta in Sicilia, in provincia di Catania, e oggi se ne fa grande uso, perché ci sono anche dei panettoni che in luogo dello zucchero usano la manna. Quindi diciamo che manna qui ha un altro senso, quindi manna qui ha un senso biblico, diciamo così. Sì, perché la manna viene viene data dall'albero, questa è una manna che viene data dagli afidi e dalle foglie, è ben differente. E visto che non si produce ogni anno, va bene, eccolo perché i nostri vecchi l'hanno chiamata manna. Bene, ricordo numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666. Bene, volevo chiedere, Rossana, quindi questo miele è molto particolare, di un territorio molto particolare, come c'è stato descritto. E oltre il miele, a parte il vino, c'è qualcosa anche di altro particolare in quel territorio di cui ci ha descritto ora il signor Assettimi? Beh, basta spostarsi di un pochino e troviamo questa cosa eccellente, di cui poi ti ho parlato a lungo off records, ed è il salmone della Varosandra. Poi lo spiegherà anche lo stesso Edi Sobez. Bene, poi sentiremo quindi zona di miele, zona di salmone e zona di vino, vero? Abbiamo con noi un produttore di vino sicuramente importante, anche perché è presidente dei viticoltori del Carso, nonché vicepresidente del Collio come rappresentante del Carso, Sandy Scherk. Sì, sicuramente il Carso, zona di vino, come ha detto prima l'amico Fausto, il Carso povero, brullo, difficile per certi versi, però generoso per altri. Io dico generoso sicuramente per la qualità che dà ai nostri prodotti, quindi anche al vino. Arriva una domanda via SMS. Qual è la composizione chimica del miele? Se avesse un'etichetta, cosa ci sarebbe scritto? C'è tanto da scrivere sul miele, va bene, la composizione del miele, noi abbiamo tre zuccheri principali, che è il glucosio, il fruttosio e il 2-2,5% di saccarosio. Abbiamo sali minerali, va bene, quando parliamo di sali minerali parliamo di tracce di sali minerali, va bene. Abbiamo un buon miele, come un buon miele tra virgolette dico sempre, come lo produciamo noi in Carso, va bene, ha circa, e dovrebbe durare nel tempo, dovrebbe avere circa il 17-18 massimo di percentuale di acqua. Queste sono grosso modo le caratteristiche del miele. Bene, grazie, ringraziamo appunto il nostro ospite con queste mieli di Marasca che abbiamo scoperto, e quindi ora continuiamo a parlare di vino. Continuiamo a parlare di vino con, abbiamo detto, con Sandy Scherk, che appunto ci aveva introdotto un po' il discorso del Carso. Ma quali sono i vitigni importanti appunto del Carso? Beh, i vitigni importanti, diciamo, sono sicuramente la Vituska, il vitigno bianco autoctono, assieme al Terrano, che fanno un po' da pilastri. E poi c'è la Malvasia, che è prodotta qua anche da sempre, e se posso dire, un altro vino che è molto prodotto oggi in Veneto, ma la storicità ce l'abbiamo noi, è la Glera, cioè quel vino che dà il Prosecco. Anzi, qui c'è una vena polemica, sento, vero Rossana? Anche a me sembra di sentirla, ma lasciamo scoprire le carte a Sandy. Bene. No, non c'è polemica, anzi noi siamo ben contenti che i nostri colleghi veneti hanno fatto un business di questo vino, però visto che la storicità è nostra e qui si produceva già nel 1500, vorremmo in un qualche modo anche noi riprendere questa glera, rifare i pasti sul nostro costone e fare il vino che da sempre era un po' storico. Anzi, devo dire che la Vituska, da studi che abbiamo fatto proprio a Conegliano a livello del DNA, è proprio figlia di Glera e di Malvasia, quindi... Bene, nel frattempo arriva una telefonata da Augusta, dalla provincia di Brescia. Buongiorno Augusta. Pronto Augusta? Richiamiamo, facciamola richiamare perché vedo che non risponda. Nel frattempo comunque è arrivata una telefonata, un sms appunto di manna, che dice: la manna si produce a Castelbuono in provincia di Palermo, e era evidente, l'avevamo parlato, Castelbuono appunto è la zona della manna, ma in maniera diversa rispetto a quella che c'è stata prima descritta. Comunque abbiamo al telefono, visto che parliamo di manna, visto che a Castelbuono viene prodotto un panettone con la manna invece di zucchero, abbiamo un produttore di panettoni di una pasticceria artigianale, Sandro Maritani. Buongiorno Maritani. Buongiorno a tutti. Senta Maritani, in questo momento c'è un grande boom del panettone. Lei cosa ne pensa? Sarà un momento oppure il panettone tutto l'anno? Lei cosa ne pensa del panettone tutto l'anno? Beh, noi come azienda anche ci crediamo molto al panettone tutto l'anno, perché comunque è un dolce tradizionale italiano che tristemente viene prodotto in grandi quantità sotto il periodo natalizio. Però essendo un prodotto di grande nicchia e di grande valore nutrizionale, perché no, tutto l'anno? Anche perché si può personalizzare con vari gusti e sapori, con frutte, con frutta artigianale senza trattamenti chimici artigianali e industriali, e quindi per noi è un grande vantaggio poterlo produrre tutto l'anno. Bene, rimanga con noi, sentiamo Augusta che abbiamo ripescato dalla provincia di Brescia. Buongiorno Augusta. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io che sono poi una buon gustaia, vorrei essere con lei quando va a assaggiare i vari prodotti tipici dei luoghi. Dunque, io volevo segnalare... Quando è un lavoro è un po' diverso, Scusi? Quando è un lavoro molte volte non è più un piacere, vabbè, è una battuta mia. Comunque no. Vado avanti, Augusta. Dunque, io volevo segnalarle il nostro piatto tradizionale bresciano, che è polenta con lo spiedo, che tra l'altro noi ci mettiamo anche gli uccelli sullo spiedo. Ho capito. Ecco, io la volevo anche invitare. No, lasciamo gli inviti in diretta. Gli inviti in diretta non si possono fare. La ringrazio, Augusta. A presto. Ricordo, abbiamo Mario da Roma. Sentiamo Mario da Roma. Buongiorno, Mario. Pronto? Sì, Mario, pronto. Sentiamo benissimo. Buongiorno, noi ci siamo intesi anche altre volte. Comunque, volevo solamente osservare, sentendo quel produttore di manna, di miele di manna, che il miele di manna si fa anche, capita una volta ogni tanto anche in Alta Umbria, nel Appennino Umbro-Marchigiano per esempio. Bene, grazie Mario della segnalazione. Ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Bene, abbiamo parlato ora di panettone, abbiamo parlato di vino e ora facciamo anche una capatina a parlare di formaggi, perché questa terra di Carsica offre anche veramente delle grandi sorprese dal punto di vista dei formaggi. E abbiamo con noi la signora Zidaric. Buongiorno signora. Ecco, voi producete una serie di formaggi che ormai hanno trovato anche grande notorietà, non solo in zona ma anche fuori. Specialmente c'è questo formaggio che si chiama Yama. Cos'è questo formaggio? Ce lo racconta? Dunque, il formaggio Yamar si chiama. È un formaggio che viene affinato in grotta carsica. È una grotta profonda, 70 metri. Si sa che sul Carso ce ne sono tantissime di queste grotte ed è un'idea che abbiamo avuto quando abbiamo cominciato a fare il formaggio, perché volevamo appunto dare al formaggio un timbro, un'impronta del territorio proprio. È un formaggio abbastanza forte di gusto, con una pasta morbida però un po' friabile. E la sua particolarità è che l'acidificazione alta che ha questo formaggio ne fa avere questo sapore molto persistente poi in bocca. È un formaggio che piace e ne siamo contenti. Bene, io vorrei tornare al vino, vorrei tornare a Scherche e farci raccontare un po' questa Vitosca, ma non è che ha avuto successo perché c'è questo nome molto particolare, così strano? Qua sul Carso, vedi Davide, siamo un po' tutti strani, come il territorio, la gente, e questa stranezza, questa particolarità poi che dà l'impronta ai nostri prodotti. Però è anche vero che quando lo conosci bene, vai a visitare i produttori, ti aprono le cantine, ti mostrano come fanno, ti mostrano le vigne, sicuramente ti aprono il cuore, quindi... Vitosca sicuramente ha un nome strano, però il successo ce l'ha avuto sicuramente per la qualità. Bene, hai fatto bene a precisarlo, ma devo dire che sono bombardato da sms che riguardano il miele. Innanzitutto, dove si può trovare il miele di Marasca? Questo è il nostro mielaio, chiamiamolo così, se n'è andato, quindi sicuramente si può trovare a Trieste dal produttore. E poi incredibilmente, come si dice, il cacio sui maccheroni, dice: se parlate dell'olio vergine d'oliva, grazie. Incredibile, ho in linea Francesco Razzetti, che è il direttore commerciale dell'olio Mate. E allora Razzetti, nel Carso c'è anche olio? Sì, nel Carso c'è Olio, questa piccolissima provincia di Trieste che negli anni è stata, gli uomini gli hanno riservato un po' di sfortuna perché l'hanno proprio rimpicciolita, la storia ha fatto sì che si rimpiccioliste, però è unita proprio in termini culturali a tutta quella che è la penisola istriana e quindi le produzioni dell'olio si snodano fra la zona di Trieste e tutta la zona dell'Istria, quindi esiste questa produzione dell'olio. Siamo nelle zone più a nord per la produzione dell'olio e l'Istria, che è qua vicino a noi e che ancora per molti evoca i ricordi, è ancora terra italiana, e ha queste particolarità di questo mix fra sole, mare, terra e vento che danno delle produzioni di olio estremamente pregiate. Marittani, volevo chiederle qual è l'accostamento che lei magari propone inedito, se ce n'è uno col panettone, perché io sono alla ricerca sempre di diciamo accostamenti inediti col panettone, ne ha uno in particolare? Beh, ce ne abbiamo due un po' inediti, uno che lo facciamo un po' tutto l'anno, che lo chiamiamo il Pamaritani, che è appunto un panettoncino sui mezzo chilo così, con le albicocche, il cioccolato e la glassa alle mandorle sopra. È un altro che lo produciamo proprio esclusivamente sotto la settimana di Natale, che lo chiamiamo il panettone Re Magi, appunto con la marena, l'arancino e il cioccolato, sempre con la glassa di mandorle sopra. 800 24 00 24, chi vuole intervenire sms 349 238 6666. Bene, ne devo leggere uno, ma siccome è un amico, straordinaria puntata, bravi alle Friuli, è un noto cantante autore, Omar Predirini. Ciao Omar, a presto. Quindi bene, Omar è un grande ascoltatore della trasmissione. Sentiamo Giorgio dalla provincia di Mantova. Buongiorno Giorgio. Buongiorno, lei la settimana scorsa ha chiesto notizie, se qualcuno aveva notizie dei trigoli. Un esattamente, amico che è suo sì. Ascoltatore mi ha telefonato, mi ha detto chiamalo tu, solo che aveva sbagliato il numero, non sono riuscito a chiamarla. La chiamo oggi, le interessano le notizie sui trigoli? Beh, ormai visto che è in linea ce la dia. Allora, il trigolo è una pianta acquatica che nasce sul fondo del lago, cresce con uno stelo lungo 2-3 metri e ha un corimbo di foglie rosse e verdi. Sotto il corimbo nascono queste castagne, questi che si chiamano castagne di lago, in termine scientifico trapanatans. Sì. Trapanatans. Ora, senti, io arrivo al dunque, si mangiano? Sì, certo che si mangiano. Allora, vi spiego, vengono raccolte in questa stagione, un po' più avanti, sotto il corimbo vanno con la barca e strappano queste cose che sono triangolari, poi vanno molto bollite. Bene. Per molto tempo. Giorgio, un'ultima domanda, ma dove si trovano? Nel lago di Mantova. Bene, grazie Giorgio. Beh, devo riassumere un po' anche per i radioascoltatori che non erano collegati la scorsa settimana. Era una trasmissione sulla ricerca di prodotti rarissimi e una radioascoltatrice aveva chiamato appunto ricordando questo prodotto che nessuno sapeva cosa fosse. Emma da Roma. Buongiorno Emma, una radioascoltatrice. Buongiorno, io telefono dalla provincia di Roma. Senti, hanno parlato del miele, ottimo prodotto, però non hanno detto che guaio ha fatto la varroa. Cioè un acaro che viene dall'Oriente, per cui una volta il miele era un prodotto assolutamente genuino e adesso purtroppo lo devono in qualche modo trattare le arnie. E quindi lei dice che è un grosso sì, problema, ma sparso in tutta Italia? Che si è diffusa la varroa ovunque, anche non so, a Favignana, che è un'isola delle Egadi, è un disastro. E questo perché? Noi avevamo la cosiddetta Apis mellifica domestica, però sempre per il profitto, che è una divinità veramente dannosa, hanno importato l'Apis mellifica ligustica dall'Oriente perché era un'ape che prolificava di più, eccetera. Però con quest'ape hanno importato anche la varroa Jacobsoni, adesso forse la classificazione è il nome diverso, bene, comunque varroa rimane. Grazie Emma, io ora lancerò questo appello, se c'è qualche altro radioascoltatore che vuole intervenire su questa malattia particolare, su questo acaro, lo faccia, così almeno esaudiamo questo, diciamo, questo argomento. E ho una altra sms, ma della gubana non ne parli? Mauro da Udine, Sandro Maritani, cosa ne pensa della gubana? La gubana è il nostro grandissimo prodotto tradizionale del Friuli, che nella provincia di Udine si chiama Cubana e a Trieste si chiama Putizia. Sono due prodotti simili anche se non uguali. Noi ne facciamo una, dato che siamo una terra un po' di mezzo, una versione della Cubana un po' più rivisitata, insomma, sempre lievitazione naturale e con tutta la frutta di indicazione tipica, quindi le noci, le mandorle, tutta la frutta secca, insomma. Ho un sacco di SMS oggi, soprattutto basati sul miele, ma ce ne sono anche parecchi sul panettone. Però voglio prima di tutto ricordare il numero verde 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Allora voglio chiedere, segnalo a Razzetti, visto che si occupa di olio, che un certo Rino da Bollate segnala un olio extravergine di oliva eccezionale sulle colline di Trieste. Provare per credere. Ma sarà il suo olio, Razzetti? O ce ne sono altri? No, ci sono una serie di produttori, però sulle colline di Trieste, che si sono uniti anche in un consorzio che si chiama Tergeste Dop, nella zona principalmente della Varosandra, quindi la zona più estrema, quella vicino al confine con la Slovenia, che hanno delle produzioni straordinarie. Ci sono produttori che sono super anche lì, veramente, sì. Quindi bene, il signore di Bollate. Bene, grazie a Francesco Razzetti, la ringrazio, ma congediamo anche Sandro Maritani con una domanda. Il panettone dolcificato con manna, secondo lei, è consigliato ai diabetici? Qui entriamo nel medico, io sono sempre molto cauto su questo. Lei cosa ne pensa, Maritani? È un discorso che va sempre preso un po' non alla leggera. Sicuramente la tendenza che oggi il mondo alimentare ci presenta sarà sempre avere dei prodotti con meno dolcificati e meno grassi. Sicuramente può essere una soluzione nel futuro innovativa. Bene, grazie Sandro Maritani e mi raccomando, continui a produrre il panettone tutto l'anno. Grazie e a presto. Bene, io vorrei tornare ai formaggi. Abbiamo parlato di Yamar. Quali altri formaggi voi producete? Beh, noi facciamo vari tipi di formaggi perché ovviamente il Carso, sul Carso non c'era la tradizione dei formaggi. Si vendeva il latte in città, le nostre nonne vendevano il latte in città, dunque quando abbiamo cominciato a fare il formaggio bisognava inventarsi una gamma di formaggi che potrebbero andare a incuriosire, no, i clienti. E per questo facciamo il formaggio con la Santoreggia, che è anche un'erba che cresce qua sul Carso, e dunque abbiamo arricchito questo formaggio con un'essenza del Carso. Il formaggio Tabor, che è un formaggio tradizionale, il latteria, diciamo, del Carso. Questo Tabor lo facciamo in varie stagionature, fino a 2 anni di stagionatura. E poi facciamo gli Yamar, che abbiamo già detto, che è questo affinato in grotta. Facciamo le ricotte affumicate, lo yogurt, sempre con tutto fatto però con il latte crudo, non pastorizzato, e usando i batteri nostri, del nostro latte. Non compriamo mai batteri selezionati per i tipi di formaggio. E questa è una particolarità, diciamo, cerchiamo di tenere il prodotto più naturale possibile, usando il nostro latte soltanto, non comprando latte da altri produttori, e dunque un formaggio tutto nostro. Bene, grazie, sentiamo Matteo dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Matteo. Ciao Davide, ciao. Buongiorno. Io volevo soltanto intervenire sul panettone. Lo so che sei a Trieste, che parla di altro, però io già da molti mesi ho inserito in menù nella mia osteria due piatti salati col panettone. Devo dire che stanno avendo un grande successo. Da un lato ti ho seguito indirettamente su questa promozione del panettone, ma io sono in territorio di panettone, quindi siamo in Monza Brianza, ma in realtà siamo a Milano, e quindi per esempio ho fatto, dato che sono molto bravo, famoso per le acciughe sotto sale, pulisco le acciughe, le metto sott'olio e poi le servo col panettone tostato, con vicino anche delle bucce di arancia candite. E devo dire che hanno un successo strepitoso. Quindi da un lato ti volevo ringraziare di questa, come dire, di questa promozione di un prodotto che secondo me giustamente può essere utilizzato tutto l'anno, anche perché in realtà ha un prezzo anche accessibile. E quindi si può dire a molti cuochi, a molti colleghi, a molti chef, che l'utilizzo anche nell'operazione del salato, del panettone, può essere un'operazione molto interessante che il cliente, come dire, sente molto, è molto divertente. Grazie. Può essere anche creativo. Grazie Matteo, io ti do 2 ricette, allora una panettone con la mortadella e una seconda panettone riscaldato col foie gras. Bene, sentiamo Gilberto dalla provincia di Firenze. Buongiorno Gilberto. Buongiorno Paolini. Dunque, io ho sentito quella signora che ha detto che le api sono trattate con degli anti, insomma, con dei veleni. È vero che c'era questa malattia che è un insetto, si chiama Varroa Jacobsoni. Però ultimamente da 2 o 3 anni si evita di trattare le api perché si ingabbia la regina. Io lo faccio a livello dilettante e spero qualche apicoltore più esperto di me lo faccia, anche se sono 30 anni e ho le api. Però ora ultimamente si ingabbia la regina nel mese di agosto per circa 4 settimane e poi togliendo la regina e non avendo il melario sopra si tratta solo una percentuale minima di acido ossalico. Bene. E quindi non è vero, è vero che c'è questo acido ossalico però non sicuramente nel miele, perché le api non, il melario non è trattato. Grazie Gilberto. Sentiamo Rossana Bettini perché credo che abbia qualcosa da aggiungere. È vero quello che dice Gilberto, quindi viene anche qua ingabbiata la regina, ma l'altra considerazione importante è che quello che molti considerano un fastidio, e cioè la bora, specialmente quando si deve passeggiare, in realtà per l'agricoltura è un privilegio, perché sia proprio per quanto riguarda le piante del carso e quindi le malattie nei confronti del miele proprio, ma anche per quanto riguarda la vitivinicoltura, anche l'olivocoltura, la bora ci porta via tutte le malattie, per cui è anche la mosca, per esempio, noi siamo attaccati pochissimo dalla mosca proprio per la presenza di questa bora che rinfresca e in qualche modo rende asettico. Quindi non è così negativa, cioè è negativa sicuramente perché quando crea dei grossi problemi, però al tempo stesso è benefica, certo, mi sembra di capire. Certo. Bene, ricordo numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. A proposito di sms, diciamo che prendiamo due piccioni con una fava, come si dice, perché c'è un radioascoltatore che mi dice: Paolini, se non provi i vini di Skerk con il prosciutto della zona capisce la metà del loro valore. E allora, visto che abbiamo Skerk ancora qui, poi magari gli chiederò una cosa al volo, anche se lui me la pronuncerà, io magari bassa io la ripeterò, e abbiamo Andrea Masè, che è produttore di prosciutto cotto in particolar modo, e devo dire che è una vera specialità di questo territorio. E volevo dire a Andrea Masè, perché si trova tanto pessimo prosciutto cotto in giro per l'Italia, Masè? Buongiorno Paolini, buongiorno agli amici che sono con lei. Lei comincia con una domanda imbarazzante, naturalmente. Allora, parlare male degli altri non si può. Io quello che devo, posso fare e sono orgoglioso di fare è quello di difendere il prosciutto cotto di Trieste, perché se posso usare uno slogan di altri, per il triestino toccatemi tutto ma non il prosciutto cotto. C'è un per Trieste il prosciutto cotto è un po' una bandiera. È una bandiera sventolata con orgoglio, al quale il triestino è affezionato. Quando un triestino rimane lontano da casa per un po' e rientra, la prima cosa che fa, va a mangiarsi un bel piatto o panino di prosciutto cotto di Trieste, fatto come si fa qui a Trieste da più di un secolo, insomma. Senta Masè, con quale vino di solito viene accostato? Qual è il miglior accostamento, appunto, prosciutto cotto? Visto che abbiamo Skerk qui, magari stiamo parlando di Terrano, stiamo parlando di Vitovska. Qual è il secondo? Allora, essendo carne di maiale, che deve essere con la sua giusta dose di grasso perché sia buono e succulento, un vino che in qualche maniera toglie la sensazione dell'unto va benissimo. Di conseguenza io dico il Terrano, e poi anche il Terrano fatto come viene fatto anche adesso, i nostri viticoltori bravissimi del Carso ce lo insegnano, va benissimo come anche la, per i bianchi, anche secondo me anche la Vitovska si accompagna in maniera eccellente al prosciutto cotto. Senta Masè, ma il segreto sono i maiali oppure è la lavorazione che fate magari senza additivi o d'altro? Ecco, questo credo che sia il punto principale. Ecco, no, il segreto, non ci sono grandi segreti, c'è una grande tradizione, una grande cultura. non è il maiale in quanto, come citava Scherk, siamo gente strana, è un territorio strano perché è un territorio, è una provincia piccolissima, difficilissima, col mare e i monti a un chilometro di distanza, un terreno di pietre, e di conseguenza qui i maiali si fa fatica ad allevarli. La nostra è una tradizione, poi come tutti i prodotti di confine, che raccoglie influenze dalle culture, soprattutto dalla cultura austro-ungarica, gli affumicati. Il segreto sta un po' nell'affinamento nel corso degli anni e degli anni di un metodo di lavorazione che è ancora artigianale, manuale, perché la salina, la salamoia, gli aromi con i quali vengono trattati le carni, le cosce del maiale, vengono iniettate, pensi, manualmente, andando a recuperare in maniera chirurgica l'arteria femorale attraverso la quale viene iniettata la salamoia nella coscia. Questo è uno degli ingredienti che rende il prosciutto di Trieste unico. E poi tutta la lavorazione, la leggera affumicatura che viene fatta, e poi la cottura dentro al pane che dà alla fine il tocco finale e poi il servizio, perché diciamo a Trieste il prosciutto si mangia caldo. Certo. Il servito caldo viene tagliato con il coltello, viene innaffiato da un'abbondante grattugiata di radice, come lo chiamiamo qui, di crain, perché che è poi la radice di rafano, che dà la giusta dimensione a questo prodotto. Bene, abbiamo così fatto un viaggio attraverso i prodotti appunto di questa magnifica terra. Ricordo numero verde 800 24 00 24. Non potrò dare risposta a tutti gli sms perché veramente sono tanti, ma c'è un signore che sta continuamente mandando delle email di improperi a chi mangia carne. Caro signore, io non ci posso fare niente se la gente mangia carne, non è che posso fare una campagna contro la carne, bisogna rispettare anche chi la mangia e chi invece non la mangia magari è vegetariano. Bene, sentiamo Guerino da Cesena. Buongiorno Guerino. Buongiorno a lei. Sì. Una curiosità, sì. La chiedo a lei da esperto. Io o sono l'unico pazzo, ma quando apro delle buste di prosciutto, state parlando di cotto, ma in questo caso io parlo di crudo, quando specie nelle imbustate, o è un prosciutto troppo giovane, io ci sento l'odore della porcilaia. Cioè, l'ambiente dove è nato, è vissuto, ha mangiato il maiale. Ma Guerino, cosa su che tutte. Non mi succede, cosa che non mi succede quando vado a prendere l'acetato tagliato a ruota nella macchina. Ho capito. E forse con prosciutto più stagionato, 24 mesi, addirittura anche di più. Non so, non riesco a capire se sono l'unico che sente questo fattore negativo nell'imbustato. Su questo non so rispondere. No, ho voluto porre la questione, certo, a lei perché è un esperto e forse può pensare a quello che le sto dicendo. Ecco. No, non so risponderle purtroppo, perché diciamo che imbustato lo compro quasi mai, quindi non glielo so dire di che cosa si tratta. Magari se c'è qualche radioascoltatore che vuole rispondere, bene, intervenga molto volentieri. 800 24 00 24. Ma ora io voglio così parlare di un prodotto veramente innovativo, perché diciamo che i territori molte volte danno anche delle sorprese, anche quelli tradizionali. E ho saputo di un prodotto che si chiama Choc, un cioccolato per sottrazione. Bene, abbiamo con noi Fabio Di Visentini, che è il produttore. Sentiamo di che cosa si tratta, Di Visentini. Choc è un acronimo, sta per Chocoholics Only, e la X finale serve a dire che cosa non c'è, e quindi la sottrazione a cui accennava. È un prodotto che è innovativo per semplificazione, nel senso che il mondo della pasticceria, della cioccolateria, ha una tendenza alla complicazione sia nelle farciture che nella produzione di materie prime e intermedi di produzione, e che va in una direzione sostanzialmente legata alle modalità di preparazione. Io, non essendo un pasticcere per cultura, però occupandomi di innovazione, ho cercato di farmi le domande più semplici, partendo dall'inizio, domandandomi per che motivo la cioccolateria parte dal cacao con l'aggiunta di grassi, e invece che dal cioccolato, il cioccolato che quindi è la pasta di cacao che contiene la sua parte grassa che è il burro di cacao. Questa domanda, alla quale non ho trovato risposta, mi ha fatto pensare che c'era una strada che si poteva percorrere, quindi io ho cominciato a inventarmi dei dolci, delle creme di cioccolato che siano fatte di cioccolato direttamente. Ribadisco, l'aggiunta di parte grassa alla polvere di cacao nel migliore dei casi è fatta di burro, nel peggiore dei casi sono grassi idrogenati, andiamo sull'olio di palma e facciamo prodotti di successo di cui tutti noi, me compreso, ci siamo nutriti abbondantemente e non abbiamo smesso di farlo la sera sul divano. Io da consumatore di cioccolato di questo tipo, che volevo, uno di quelli che voleva darsi una gioia o una modalità di piacere, ho pensato che forse bisognerebbe farsi del bene e quindi ho provato a cominciare a sottrarre. Quindi ho messo il cioccolato, ho preso le ricette, forse quelle più standard, e ho cominciato a vedere se l'uovo era indispensabile, ma ho visto che c'era già un tensiattivo, non mi serviva. Poi ho detto, ma perché ci devo mettere il mascarpone? E ho progressivamente l'ho tolto, poi ho tolto il burro, poi ho tolto il latte, perché a quel punto cosa mi serviva? E sono rimasto con l'acqua. Beh. E quindi io mescolo cioccolato con acqua sostanzialmente. Quindi la cosa più semplice, più diciamo elementare. Bene, una storia, rispondo subito, vedete i radioascoltatori di Radio 24 della trasmissione sono subito pronti al nostro Guerrino da Cesena. È un problema di barriera del film, impedisce la traspirazione e quindi gli aromi si concentrano. Bene, risposta perfetta. Io ho un'altra bellissima storia, oltre a questa del cioccolato, è una storia che dalla birra è nato il salmone, ce la vuole raccontare Edi Zobek? Buongiorno a tutti. Beh, Trieste e il Carso è un binomio inscindibile, già a partire dalla Prima Guerra Mondiale. Carso è un sinonimo di terra brulla, di terra battuta dal vento di bora, di terra priva di acqua. Beh, in verità l'acqua c'è nelle sue viscere, l'acqua che sgorga da sorgenti purissime, piccole, non copiose, in tutto l'arco del Carso verso il mare che nel suo entroterra. Noi siamo localizzati in Val Rosandra, una stretta valle a ridosso di Trieste, un polmone verde della città di Trieste, totalmente incontaminata, riserva naturale. In questa valle abbiamo i nostri allevamenti, quindi in acqua purissima nasce il salmone della Val Rosandra. Bene, quindi diciamo una bellissima storia, perché da un prodotto ne è nato un altro. Ma lei è più appassionato della birra che produceva o dei salmoni? L'uno si mangia, l'altro si beve. Beh, quindi ha fatto l'amplain. Bene, vedo che c'è tanti sms che diciamo confermano quello che ho letto prima del nostro radioascoltatore. Sentiamo Alessandro da Roma, velocissimo Alessandro, pochi secondi ancora. Prego Alessandro. Sì, grazie, buongiorno. Volevo confermare esattamente, solamente un'unica conferma che può dire, però in alcune marche più da discount, sinceramente sento questa cosa, e anche il sapore sembra veramente carne cruda. Bene, grazie Alessandro da Roma, si sente malissimo. Silvana da Pordenone, 30 secondi. 30 secondi, volevo solo dire che il 27 settembre c'è stata la giornata mondiale del turismo e l'anno scorso il Friuli ha presentato il Talking Braida, un tingolo del podere che va proprio a unire tutto il Friuli, e quest'anno invece abbiamo i chanson, che è un altro piatto che l'illustre chef Cossetti aveva indetto. Un grandissimo è interessante perché ha tirato su 40 ricette, vuol dire che siamo uniti, certo. Ma ognuno a casa sua mangia a modo suo. Bene, un grandissimo sicuramente della cucina italiana. Bene, io devo chiudere, però devo dire che c'è una sms a cui devo dare una risposta. C'è un signore che sta andando a Napoli e mi chiede una pizzeria. Caro amico, vai in edicola e compra la guida delle pizzerie mia, che è uscita, sta uscendo proprio oggi. Non è una battuta, ma chi vuole controllare ho veramente questo SMS. Volevo dire anche che Rossana prima mi ha suggerito che un altro segreto del prosciutto appunto di Trieste è questa morsa che si sono inventato. Proprio a proposito di innovazione, perché di questo di cui parliamo, c'è la morsa che tiene il prosciutto caldo. Bene. Grazie a tutti, grazie a tutti, un gran saluto da Gastronauta, vi dà appuntamento domani alle 11.15 con Riposo del Guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11.05 e 23.05. Buon weekend a tutti. Thank you.